Canto 25 della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 25. Al fine delle sue parole il ladro le mani alzò con ambedue le fiche, gridando: «Togli Dio, ch'a te le squadro!» Da indi in qua mi fur le serpi amiche, perché una li s'avvolse allora al collo, come dicesse: «I non vo che più diche!» Ed un'altra alle braccia, e rilegollo ribadendo a se stessa sì dinanzi, che non potea con esse dare un crollo. «Ai, Pistoia, Pistoia, che non stanzi d'incenerarti, sì che più non duri, poiché mal far lo seme tuo avanzi. Per tutti i cerchi dell'inferno scuri, spirto non vidi in Dio tanto superbo, non quel che cadde a Tebe giù de muri». El si fuggì, che non parlò più verbo, ed io vidi un centauro pien di rabbia venir gridando: «Ov'è? Ov'è l'acerbo?» Maremma, non credio che tante nabbia, quante bisce gli avea su per la groppa, infine ove comincia nostra rabbia. Sopra le spalle, dietro dalla coppa, con l'ali aperte gli giaceva un traco, e quello affuoca qualunque s'intoppa. Lo mio maestro disse: «Questi è Caco, che sotto il sasso di Monte Aventino di sangue fece spesse volte l'aco. Non va co suoi fratei per un cammino, per lo furar che fraudolente i fece del grande armento che gli ebbe vicino. Onde cessar le sue opere biece sotto la massa d'Ercole, che forse gliene die 100 e non sentì le 10». Mentre che si parlava e dei trascorse, i tre spiriti venner sotto noi, dei quai né io né il duca mio s'accorse, se non quando gridar: «Chi siete voi?» Perché nostra novella si ristette, e intendemmo pure ad essi poi. Io non li conoscea, ma ei seguette, come suol seguitar per alcun caso, che l'un nomare l'altro convenette, dicendo: «Cianfa, dove fia rimaso?» Perch'io, acciò che il duca stesse attento, mi posi il dito su dal mento al naso. Se tu sei or lettore a creder lento, ciò ch'io dirò non sarà maraviglia, che io che il vidi appena mi consento. Com'io tenea levate in lor le ciglia, ed un serpente con 6 piè si lancia dinanzi all'uno, e tutto a lui s'appiglia. Coi piedi mezzo gli avvinse la pancia, e con gli anterior le braccia prese, poi gli addentò e l'una e l'altra guancia, di dire Tania le cosce distese, e miseri la coda tramendue, e dietro per le ren su la ritese. Ell'era abbarbicata mai non fu ad alber sì, come l'orribil fiera per l'altrui membra viticchiò le sue. Poi s'appiccar come di calda cera fossero stati, e mischiar lor colore, né l'un né l'altro già parea quel ch'era. Come procede innanzi dall'ardore per lo papiro suso un color bruno che non è nero ancora e il bianco muore?» Gli altri due riguardavano e ciascuno gridava: «O me, agnel, come ti muti! Vedi che già non sei né due né uno!» Già erano i due capi un divenuti, quando n'apparver due figure miste in una faccia, ov'eran due perduti. Fersi le braccia due di quattro liste, le cosce con le gambe, il ventre e il casso divenner membra che non fur mai viste. Ogni primaio aspetto ivi era casso, due e nessun l'immagine perversa parea, e tal sengia già con lento passo. Come il ramarro sotto la gran fersa, ne di calmicular cangiando siepe, folgore par se la via attraversa. Così parea, venendo verso l'epe degli altri due, un serpentello acceso, livido e nero come grandi pepe. E quella parte, onde di prima è preso nostro alimento, all'un di lor trafisse. Poi cadde giuso innanzi lui, disteso. Lo trafitto il mirò, ma nulla disse. Anzi, co pie fermati, sbadigliava pur come sonno febbre l'assalisse. Egli il serpente, e quei lui riguardava. L'un per la piaga e l'altro per la bocca fumavan forte, e il fummo s'incontrava. Taccia Lucano mai là dove tocca del misero savello di Nassidio, ed attende ad udir quel cor si scocca. Taccia di Cadmo e d'Aretusa, Ovidio, che se quello in serpente e quella in fonte converte poetando, io non lo invidio, che duo nature mai a fronte non trasmutò, sì che amendue le forme a cambiar lor materie fosser pronte. Insieme si risposero a te norme che il serpente la coda in forca fesse e il feruto ristrinse insieme l'orme. Le gambe con le cosce seco stesse s'appiccarsi, che in poco la giuntura non facea segno alcun che si paresse. Togliea la coda fessa la figura che si perdeva là, e la sua pelle si facea molle e quella di là dura. Io vidi entrar le braccia per l'ascelle e i due piedi della fiera che eran corti tanto allungar quanto accorciavan quelle. Poscia li piedi rietro insieme a torti diventaron lo membro che l'uom cela, e il misero del suo n'avea due sporti. Mentre che il fummo l'uno e l'altro vela di color nuovo e genera il pel suso per l'una parte e dall'altra il dipela, l'un si levò e l'altro cadde giuso, non torcendo però le lucerne empie sotto le quali ciascun cambiava muso. Quel che era dritto il trasse inver le tempie, e di troppa materia che n la venne uscir l'orecchie delle gote scempie. Ciò che non corse indietro e si ritenne di quel soverchio fenaso alla faccia, e le labbra ingrossò quanto convenne. Quel che giaceva, il muso innanzi caccia e l'orecchie ritira per la testa, come face le corna la lumaccia, e la lingua, ch'avea unite presta prima parlar, si fende, e la forcuta nell'altro si richiude, e il fummo resta. L'anima, che era fiera divenuta, si fugge, sufolando per la valle, e l'altro dietro a lui parlando sputa. Poscia li volse le novelle spalle e disse all'altro: «I vo che buoso corra come fecio, carpon per questo calle». Così vid'io la settima zavorra mutare e trasmutare, e qui mi scusi la novità se fior la penna borra. Ed avvegna che gli occhi miei confusi fossero alquanto, e l'animo sbagato non poter quei fuggirsi tanto chiusi ch'io non scorgessi ben Puccio sciancato, ed era quei che sol de tre compagni che venner prima non era mutato. L'altro era quel che tu, Gaville, piagni. Fine del canto 25.